Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con l'usi decrescenzo di Europictures per presentare il film Perfetta Illusione di Pappi Corsicato al cinema da giovedì 15 dicembre 2022, ben trovata. Ciao Federico, ciao a tutti. Che storia racconta Pappi Corsicato? Racconta tante storie in una. Intanto Pappi è tornato dopo vari documentari, di nuovo alla regia. E devo dire che con questo film abbiamo avuto delle recensioni bellissime. È un melò, in sostanza, racconta una storia d'amore, ma anche una storia di ambizione, con dietro poi un inganno e un tradimento. Come lo avete incontrato il film? Io sono insomma amica di Pappi da tanti anni e so che stava facendo questo progetto e avevo letto la sceneggiatura ed era molto interessante. Tra l'altro gli attori sono degli attori giovani, ma sono già delle giovani star come Giuseppe Maggio, Carolina Sala, Margherita Vicario, per cui anche con la produzione Monpacem hanno voluto investire su queste giovani star, per cui quando il progetto è arrivato non abbiamo avuto nessun problema a considerare la distribuzione. A maggior ragione che poi il film è stato anche selezionato al Festival di Torino, dove l'abbiamo presentato e siamo in sala. Oggi con grande sorpresa siamo anche la seconda media copia dopo Avatar, per cui dobbiamo essere contenti perché vorrà dire che il pubblico ha anche apprezzato il film. Quali sono secondo te i pregi principali? E che racconta una storia dove tutti un po' si possono identificare, perché tutti siamo stati innamorati, tutti abbiamo avuto delle ambizioni, qualcuno anche delle tentazioni, per cui ci si ritrova poi in questi giovani che hanno una vita precaria, però poi sognano di poter fare il salto di qualità anche attraverso delle ambizioni che poi sono anche ambizioni artistiche, perché il film parla di un ragazzo che effettivamente vuole diventare un pittore, per cui c'è anche molta arte e ci sono delle bellissime immagini poi di quadri di Castellano, quindi un po' anche questa Milano glamour, secondo me anche quello un po' ha colpito e per quello insomma il film sta avendo grossi apprezzamenti, oltre che dalla critica. Siamo stati anche segnalati come il film da vedere di Mereghetti, anche appunto dal pubblico che comunque apprezza queste storie. In quante sale è uscito? Siamo usciti con una trentina di copie all'inizio, perché considerando che, come sai Federico, il 15 dicembre insomma ci scontriamo con i mostri sacri come Avatar, però devo dire che con questo risultato così importante probabilmente le copie cresceranno e riusciremo ad arrivare anche in provincia, perché adesso abbiamo fatto le principali città. Questo titolo cosa evoca? È un po' le illusioni perdute di Balzac, il regista si è un po' ispirato a quello. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere le sale? Il nostro sito www.europictures.it, altrimenti anche le pagine Instagram e Facebook sempre di Europictures. C'è un aggiornamento continuo sulle sale e spero che si possa apprezzare anche un film d'autore con dei giovani protagonisti molto bravi. Dicevi che torna dopo alcuni documentari Pappi Corsicato, e come si inserisce secondo te questo suo lavoro nella sua filmografia? Lui è ritornato un po' a riprendere quello che era la sua cifra, perché poi noi sappiamo che Pappi con il film Libera veramente fu considerato l'Almodóvar italiano, per cui è tornato di nuovo a riprendere questa cifra, però oserei dire con un tocco più maturo, classico, perché la sua regia è sempre classica, però questa volta è un po' meno trasgressiva rispetto ai suoi film precedenti. Il film Perfetta Illusione di Pappi Corsicato al cinema da giovedì 15 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Lucy De Crescenzo di Europictures che lo distribuisce. A presto! A presto, grazie a tutti voi, buone feste, mi raccomando, andate al cinema! Il regista Antonio Rezza sul suo film Il Cristo in Gola, in programmazione a Roma al Cinema Troisi e a Milano al Cinema Beltrade. Ben trovato. Ciao, ciao a voi. Come lo presenteresti a chi ci ascolta? Lo presenterei come un virtuosismo dove non riuscivo a strappare il controllo all'autore gerarca di ogni opera attraverso l'interpretazione. Quindi è un film su un collega perché Cristo predicava come predichiamo noi. Non so se più lui nel deserto o noi, io spero che noi non abbiamo mai predicato nel deserto. In ogni caso è un film che ho fatto da solo perché Flavia non volle partecipare a quella che definiva una pubblicità occulta alla religione di Stato, ma io volevo misurarmi con le gesta di un corpo simile al mio, quindi credo che sia un film clamoroso, violentemente antiproduttivo perché è stato realizzato in 18 anni, è una bella lezione all'attore in quanto figura schizofrenica del nostro panorama culturale. Insomma, è un film che ho avuto la fortuna di fare per privilegio stilistico, ecco come lo presento. Non è concettivo e competitivo a qualsiasi tipo di film realizzato in materia. Come mai questo lungo percorso? Semplicemente perché nel 2008, quando presentai il progetto, uscirono tantissime pagine intere in nazionale. Io rimasi un po' inibito, dico, ma è possibile che la figura di Cristo possa essere più importante della mia figura, o della nostra figura, o tutto quello che facciamo? Allora mi sentii un po' inibito da questo interesse ossessivo e l'ho fermato per altri 14 anni, insomma. Adesso, dopo che abbiamo presentato Stampa a Venezia, noi volevamo che ci fosse una riapertura al nostro cinema, perché non è che perché uno è indipendente debba essere penalizzato nella visibilità di quello che fa. E poi esce fuori la meschinità dell'autore, io parlo come autore, perché non posso parlare il personaggio, non posso parlare l'attore, l'interprete di questo film, che sono sempre io, che fa le scarpe alla regia. La scelta stilistica del bianco e nero? Io volevo fare un Vangelo speculare a quello di Pasolini, era un omaggio a Pasolini, e il film è speculare a quello di Pasolini, quando io non entro in scena come interprete. Poi, come dicevo prima, da quando io interpreto il film, involontariamente il film prende un'altra direzione, dimostrando che, come ho scritto nelle note di regia, io, oltre a quella di Dio, non riconosco neanche la parola mia. Quindi mi ribello anche alle mie direttive. Questo è il privilegio che un attore non ha, che l'attore non riesce a ribellarsi nemmeno alle direttive di un altro, figurarsi alle sue. Insomma, è un manifesto involontariamente ideologico, preciso, cava un solco ancora più profondo tra chi si vende e chi non lo fa. Anche la scelta dei luoghi è legata a questo omaggio? Beh, un film su Cristo lo insegna la storiografia e letteratura, su film di questo genere non può prescindere da Matera. Matera era una città fantastica, adesso è sempre più difficile fare un'inquadratura senza il cartello di un bar, di un ristorante, di una trattoria, senza i corrimano che hanno messo quando è andato Gibson a dare il colpo di grazia alla città. È una città che, come tutte le città che diventano turistiche, sta perdendo a poco la sua identità. E io ho forse le ultime immagini di una Matera ancora legata alla sua forma originale. Però ecco, mi sembrava curioso e interessante andare a girare lì, poi l'ho girato anche in altri posti. La maggior parte del film è girata a Matera. Il titolo? Deriva dal fatto che questo Cristo strilla e quindi ce l'ha nella gola la parola di Dio lui ce l'ha nella gola e si tramuta in vocale, ecco. Con le vocali accorciamo la strada verso il patibolo, si strilla con le vocali. Nasciamo, come dico sempre, con una vocale e moriamo con una vocale. Il bambino che piange usa le vocali, chi muore, muore con un sospiro o con una strozzata. Quindi le consonanti servono solo a dar significato a niente. Come hai deciso di unire le immagini distanti nel tempo tra le prime riprese e le ultime? Seguendo lo straccio di filo narrativo che una vicenda preesistente può garantire, non è stato difficile, insomma, vedere l'invecchiamento anche degli attori durante la lavorazione. Ma è un film coerente, torno a ripetere, in un momento in cui tutto è in vendita, io dico che non tutto si può comprare e non si compra certo la dignità di chi è contro in modo radicale questo sistema. Ecco. Non a caso va distribuito da Eremita, Ecco, quindi probabilmente rinuncerò anche a proposte che potrebbero renderlo ancora più visibile. Mi sembra una scelta coerente, insomma, mi sembra necessario. Come sempre, insomma, noi non siamo i sacerdoti di nessuno e non siamo gli unici a mantenere una certa coerenza, però mi dà fastidio che a noi si cominci a vedere come delle persone verso le quali, insomma, ci si può confidare dei propri peccati. Noi veniamo scambiati come confessori, cioè chi si vende non deve venire a noi a giustificarsi perché si è venduto. Chiunque può fare quello che vuole. E a noi non riguarda, però è chiaro anche che uno deve mettere dei paletti ogni tanto e questo film, nella sua comicità disperata, perché è un film drammatico, anche se è sempre legato al paradosso, ma è chiaro, è netto e stabilisce le gerarchie. A presto! Grazie a voi, grazie. Il regista Antonio Rezza sul suo film Il Cristo in Gola, in programmazione a Roma al Cinema Troisi e a Milano al Cinema Beltrade. Con Chiara Avesani, co-regista del documentario Erasmus in Gaza. Ben trovata. Buongiorno, grazie. Raccontiamo questo lavoro. Erasmus a Gaza è la storia di Riccardo, che è uno studente di medicina dell'ultimo anno che fa appunto l'Erasmus nella striscia di Gaza. Riccardo è il primo studente al mondo occidentale ad andare nella striscia di Gaza per imparare, per passare 4 mesi e mezzo insieme con gli abitanti della striscia di Gaza. In particolare verrà ospitato da un ragazzo e dalla sua famiglia e vivrà la vera e propria esperienza che si vive a Gaza. L'Erasmus Plus già esiste con Israele e con la Cisgiordania e questo invece è il primo Erasmus in assoluto nella striscia organizzato dall'Università di Siena con la borsa della Commissione Europea. E quindi per noi questa è un'operazione di diplomazia culturale molto interessante che ha fatto l'Unione Europea e per questo abbiamo deciso di seguire Riccardo e vedere che cosa gli sarebbe capitato. E come in tutti gli Erasmus ci sono molte cose allegre, divertenti, buffe dell'esperienza di un ragazzo di 24 anni e poi però si rivela anche il contesto della striscia che è fatto di una guerra in corso, di bombardamenti e in quel periodo delle marce del ritorno. Come nasceva tutto? L'idea è nata dal fatto che girando un precedente film il co-regista Matteo Delbo ha scoperto che sarebbe arrivato da lì a poco il primo studente Erasmus della storia nella striscia di Gaza e quindi abbiamo deciso di capire chi fosse questo ragazzo e abbiamo conosciuto Riccardo, che è uno studente mosso da un sincero spirito umanitario che dovrebbe guidare sempre la professione medica. Lui appunto è uno studente di medicina, ma non era un ragazzo ideologico, quindi abbiamo pensato che fosse proprio perfetto per scoprire la striscia di Gaza insieme. Era un luogo che lui conosceva così dalle notizie dei media, ma non aveva veramente idea di dove sarebbe andato a finire. Com'è stato il lavoro? La striscia di Gaza è un luogo sotto embargo dove non entra e non esce nessuno e purtroppo non entra e non esce neanche niente. E quindi per poter lavorare a un documentario noi abbiamo seguito l'intero Erasmus, cioè siamo entrati con Riccardo e ci siamo fatti chiudere dentro. Gaza è una prigione a cielo aperto che contiene 2 milioni di persone e quindi per poter seguire veramente l'esperienza noi non potevamo girare alcuni giorni e poi uscire e rientrare. Abbiamo fatto di nuovo l'Erasmus un po' con lui. Che esperienza è stata? È stata un'esperienza forte. Questo film rappresenta i 4 mesi e mezzo di Erasmus e i successivi 2 anni di montaggio. Insomma, rappresenta un bel pezzo della nostra vita, della mia, di quella di Matteo Delbo, dei montatori, della produttrice e sicuramente di Riccardo. È stata un'esperienza per cui quando poi vai via da lì sai che lì lasci un gruppo di persone che sono diventati amici strettissimi, che ti hanno ospitato e per i quali ti preoccupi ogni volta che c'è un nuovo bombardamento, perché l'ultimo grande bombardamento conosciuto dal mondo occidentale sono stati 10 giorni ad agosto 2022, però in realtà la striscia di Gaza viene bombardata più o meno ogni mese e mezzo per 2 o 3 giorni nell'indifferenza della comunità internazionale e chiaramente ormai noi lo viviamo diversamente, avendo persone molto vicine che ci preoccupano, ecco, che sappiamo anche che vivono con una grande forza, una resistenza incredibile. Che impressioni hai ricavato a proposito della questione palestinese? Più che impressioni, ho vissuto proprio, ho conosciuto una quotidianità che è fatta di tantissime cose belle e di una vita che potrebbe essere veramente meravigliosa in un posto che è oggettivamente affaccia sul mare ed è un territorio ricchissimo, Gaza era un'oasi, quindi è un tipo di vita che non viene mai raccontato dai media che si occupano della striscia in genere per le notizie, quindi per la guerra, quando ci sono bombardamenti o quando c'erano queste marce del ritorno che hanno gambizzato praticamente una generazione per la quale i palestinesi andavano ogni venerdì a protestare lungo il confine israeliano per chiedere il diritto al ritorno nelle loro terre, e quando si avvicinavano troppo alla buffer zone venivano colpiti da proiettili dei cecchini israeliani e molto spesso miravano alle ginocchia, alle caviglie, quindi alle giunture, ed erano inoperabili. E questo ha appunto gambizzato una generazione. Nonostante questo, ci sono un'intera generazione di ragazzi che ormai è cresciuta sotto Hamas e quindi non ha la prospettiva di uscire mai dalla distanza che passa tra Roma e Fiumicino tutta la loro vita, eppure c'è tanta bellezza e anche una prospettiva di vita piena di energia, di resistenza. In ogni caso non si esce dalla striscia mai con una sensazione depressiva, ma sempre con una grande energia vitale. Quindi questo per me è stato un aspetto sorprendente, viste le condizioni. Che distribuzione sta avendo il documentario? Il film in Italia è distribuito da Feltrinelli, ma Sopace Palestina lo sta portando in molte università e in molte scuole superiori. Per chi volesse organizzare una proiezione c'è una mail, erasmusgaza@gmail.com, e poi il film è su Sky On Demand. E a livello internazionale c'è un distributore francese, Java Film, ed è andato in moltissimi festival internazionali, ha vinto premi come miglior documentario a Monte Carlo, il premio della giuria giovani, che per noi è molto importante, ad Hoc Barcellona e anche al Primed, dove l'hanno mandato in 2500 scuole del Mediterraneo, e questi ragazzi hanno votato in 5 scuole in Egitto, in Libano, in Tunisia, in Spagna, in Francia, in Italia, appunto tutte le scuole che affacciano sul Mediterraneo, e anche lì i ragazzi l'hanno scelto come miglior documentario. Quindi noi siamo molto orgogliosi di questo pubblico giovane, perché è per loro che è stato fatto il film. Il documentario Erasmus in Gaza. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Chiara Avesani. A presto! Grazie a voi. Con Adele dell'erario di Doc It per presentare la rassegna cinematografica Onda Madre, i documentari che proteggono i diritti a Roma, Spazio Scena, dal 19 al 22 dicembre 2022. Ben trovata. Ciao Federico, grazie per l'invito, ben trovato, e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Raccontiamola. Onda Madre è appunto una rassegna dedicata ai documentari che proteggono i diritti, come vuole il sottotitolo dell'evento. È un progetto realizzato con il sostegno della Regione Lazio ed è ideato e promosso da Doc It, Associazione dei Documentaristi Italiani, è dedicato a lavori audiovisivi, quindi ovviamente documentari che si occupano di tematiche sensibili e in particolare appunto di diritti a 360 gradi, quindi diritti dell'uomo, diritti del pianeta, diritti dell'ambiente, quindi diritti degli animali. Siamo il 19, il 21 e il 22 dicembre allo Spazio Scena, quindi nella sala cinematografica dell'ex Film Studio a Roma, dalle ore 18, con 3 giornate, e proiezioni e incontri con 3 focus specifici. Il 19, quindi lunedì, dalle ore 18, abbiamo un focus molto femminile, diciamo così, con però angolature differenti, e la proiezione di The Witchmaker, di Benedetta Argentieri, autrice e regista, che è stato presentato fuori concorso alla 79esima mostra del cinema di Venezia, ed è una riflessione sulla guerra santa islamica dal punto di vista delle donne, che ovviamente hanno fatto parte del califfato, e abbiamo un'intervista esclusiva a una jihadista molto conosciuta. In questa occasione avremo con noi in sala Edgarda Mastucci, Marcucci, che è coautrice o comunque collaboratrice in questo lavoro. Edgarda Marcucci noi la conosciamo per aver partecipato all'Armata Curda, quindi alcuni la conoscono proprio perché è un'ex combattente italiana, quindi questo è un titolo molto importante a cui teniamo tantissimo. Tra la prima proiezione e la seconda abbiamo un incontro con Ilaria Masinara, che è responsabile delle campagne di Amnesty International Italia, e la seconda parte della giornata la proiezione di Radiograph of Family di Firuz e Costrovanni. Probabilmente ancora ai domiciliari in questo momento avremo un collegamento con la regista. Miglior documentario a IFA del 2020, quindi tutti i film che ospitiamo sono pluripremiati in moltissimi dei festival, degli eventi a cui noi teniamo tantissimo internazionali, appunto come IFA o CPH Docs. E entrambe le proiezioni saranno presentate da Farihan Sabahi, giornalista del Manifesto, che quindi ci accompagnerà in questo percorso anche con questa seconda pellicola. E lì abbiamo invece una figura femminile, che è quella della madre della regista, quindi abbiamo un percorso storico della vita familiare di Firuzeh Khosrowani, e siamo in Iran, quindi a questo titolo teniamo moltissimo, ovviamente per l'attualità e per tutte le informazioni che ci arrivano da quel territorio in questo momento. La giornalista Farihan Sabahi sta curando molto questi aspetti e tutte le notizie che ci arrivano dall'Iran, quindi chi meglio di lei per introdurci a questa giornata, quindi che abbiamo dedicato appunto al femminile, diciamo così, però da punti di vista assolutamente anche molto diversi. Abbiamo per la giornata precedente una collaborazione con Zalab, sarà presente anche il produttore, distributore e regista Andrea Segre, che poi ha distribuito il film. Mercoledì 21 dicembre, sempre dalle ore 18, abbiamo Collective di Alexander Nanau, sulla vicenda della morte di 27 persone in un nightclub a Bucarest. Il focus apre un po' una giornata sulla trasparenza delle informazioni da parte delle istituzioni e anche da parte di quelle testate, questo sarà soprattutto per la seconda proiezione, che non riescono invece, però sempre per problemi politici, a fare il loro lavoro. Infatti con Collective nella prima parte, poi abbiamo invece un film afghano, di un regista afghano, Abbas Rezaie, che è di Etilat Ross, e lì abbiamo il quotidiano più diffuso a Kabul, con tutte le difficoltà che sta avendo nel fare il proprio lavoro in una città riconquistata dai talebani. Quindi questo invece è il focus della seconda giornata. E dalla prima proiezione alla seconda abbiamo sempre questi momenti conviviali, quindi un aperitivo che facciamo con ONG, associazioni, le più importanti poi di fatti, Emergency, abbiamo Amnesty International, abbiamo Open Arms, che parteciperanno a queste tre giornate per raccontare proprio il lavoro che stanno facendo in tema di diritti a livello nazionale anche e a livello ovviamente internazionale. L'ultimo giorno è dedicato all'ambiente, quindi la tematica scottante, urgente dell'ambiente, attraverso una panoramica su un giovane movimento, Extinction Rebellion, che si dedica ovviamente alle questioni ambientali, questo con un documentario che è stato comunque premiato a IFPA e CPH Docs, quindi comunque un bel lavoro. E un altro invece lavoro estremamente importante, questa proiezione realizzata in collaborazioni con Visioni dal Mondo, Festival Internazionale del Documentario, dove è stato proiettato l'ultima edizione del festival, che è Delicado di Karl Malacunas. Questo è un film pluripremiato, incredibile, potentissimo. Qui abbiamo la questione delle foreste pluviali, siamo sull'isola delle Filippine, anche qui tematiche estremamente sensibili legate all'ambiente. In quest'ultima giornata affrontiamo invece le questioni legate ai diritti degli animali insieme alla giornalista Giulia Innocenzi, che conosciamo soprattutto per i suoi ultimi interventi con le Iene, una delle giornaliste più sensibili alle tematiche legate ai diritti degli animali, e parleremo con lei proprio del legame tra i diritti degli animali e quelli ovviamente dell'ambiente, che sono estremamente connessi alle questioni dell'inquinamento climatico. Quindi questa è una panoramica rapidissima sulle tre giornate. L'ingresso è gratuito e quindi avremo proiezione, aperitivo, poi ritorneremo in sala. Per il programma ci dai tutti i riferimenti internet? C'è il nostro sito, che è documentaristi.it, e poi ovviamente Facebook dell'associazione, quindi sempre Facebook di Dokit e Instagram di Dokit, che poi ovviamente sono i mezzi privilegiati per una comunicazione in diretta e costantemente aggiornata, quindi sia per le giornate di rassegna che per tutti gli approfondimenti relativi ai film e agli ospiti che saranno presenti con noi in questo evento. La rassegna cinematografica Onda Madre, i documentari che proteggono i diritti, a Roma, Spazio Scena, dal 19 al 22 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Adele Dellario di Dokit. A presto! Grazie a te. con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per vedere le novità del mese sul portale. Ciao, ben trovato. Buongiorno a tutte e tutti. Raccontaci. Iniziamo innanzitutto da la parte di OpenDDB legata ai circuiti sala ed extra sala. Come sapete, da alcuni mesi siamo in tournée con diverse opere, tra queste il nostro Sarura di Nicola Zambelli, che è un film assieme a Kappa Factory girato in Palestina, che è in tournée da ormai 6-7 mesi, e Tango con Putin, che è questo film internazionale che abbiamo portato per prima volta in Italia e che sta facendo tutto un suo percorso sala. Ma sempre sul fronte sala ci saranno grandi novità dal 2023, di cui possiamo accennarne già una. E il 19 gennaio usciremo nelle sale con Tu come stai, di Filippo Maria Gori, coprodotto anche dall'Istituto Amod di Roma, e racconta la storia degli operai e degli operai della GKN. Quindi un film attualissimo, felicissimi di sostenere nella distribuzione e nella diffusione, sia in sala che poi un domani in streaming, e che ha avuto l'anteprima internazionale al Festival dei Popoli di Firenze del mese scorso. Quindi insomma sul 2023 abbiamo già diversi titoli in uscita e il primo che uscirà sarà questo, ma ne parleremo poi all'inizio dell'anno prossimo. E per quanto riguarda lo streaming abbiamo sicuramente due notizie molto importanti. La prima è il film The Game, di cui forse avevamo già parlato settimana scorsa, perché abbiamo proiettato anche in anteprima a Bologna, anteprima nazionale. Un film documentario molto bello, di una produzione austriaca, quindi anche questo è un film che arriva dall'estero e che, già dal titolo si può intuire, è interamente ambientato all'interno di quello che è il cosiddetto percorso della Balkan Route, dove ragazze e ragazzi migranti oggi attraversano questo percorso per provare ad entrare in Europa, perché poi in realtà spesso quello che si sta anche verificando è che ci sono sacche di comunità, di popolazioni bloccate ai confini di Schengen, fuori da Schengen, quindi in mezzo ai Balcani. E come penso sapete, in particolar modo quell'area, ma non solo quell'area, è stata ribattezzata The Game proprio perché i percorsi migratori contemporanei sempre di più assomigliano a un videogioco dal punto di vista proprio dei famosi processi di gamificazione di cui da un po' parliamo tutti quanti spesso, nel senso quel processo per cui una cosa che dovrebbe essere a tutti gli effetti un diritto, cioè la libertà di spostamento, viene processato all'interno di un gioco con le sue determinate regole. Se le regole sono quelle, diventa anche difficile metterle in discussione, soprattutto quando si parla della vita delle persone. E i fenomeni migratori odierni stanno assumendo sempre di più questo tipo di narrazione, non per colpa nostra ovviamente, però bisogna farci conti. Questo film è molto bello proprio perché fa il verso anche su questa logica, per cui i personaggi del film, che non solo sono ragazzi migranti, ma ci sono anche all'interno del cast alcuni solidari internazionali, associazioni e quant'altro, compongono un puzzle di personaggi all'interno di questo gioco. L'altro lavoro invece che ci tengo moltissimo a segnalarvi è che non è un film, ma in realtà è uno spettacolo concerto teatrale musicale, è Il richiamo degli scomparsi di Massimo Zamboni. Massimo Zamboni non ha ovviamente bisogno di presentazioni, è insomma una figura di spicco del panorama culturale musicale italiano. Come sapete bene, Zamboni, oltre a essere cofondatore dei CCP e dei CSI, ha fatto anche una lunga carriera da solista, ha fatto tantissimi album anche con diverse partecipazioni artistiche, anche diversi, passami il termine, crossover in qualche maniera, cioè spesso ha miscelato teatro, musica, letteratura, cioè è un artista ormai a tutto tondo in qualche maniera, che ha sperimentato tantissimi linguaggi. Questo spettacolo, che è stato girato nel 2019 al Teatro di Reggio Emilia, è in qualche maniera una sintesi, nel senso anche da questo punto di vista, del modo di fare cultura che ha Massimo, nel senso che non si può definire a tutti gli effetti un concerto, neanche uno spettacolo teatrale, ma neanche un film. È un insieme di azioni e di esperienze con un cast artistico importante, perché c'è dentro Vasco Brondi, Giulio Di Marco, Murbutu, Nada, Marina Parente e tanti altri, e abbiamo deciso assieme a Massimo, che insomma si è detto disponibile in questo esperimento distributivo, non solo perché Massimo ha apprezzato anche il nostro modello alternativo di distribuzione, ma anche perché siamo appunto in un ottimo rapporto con lui anche per il film che stiamo girando, Kissing Gorbachev, e abbiamo provato a immaginare questo esperimento distributivo principalmente in streaming, ma prevederemo sul 2023 anche delle proiezioni pubbliche in alcune città di questo spettacolo appunto realizzato nel 2019, e che però, essendo stato girato, dice, con un profilo tecnico molto elevato, si presta anche una visione in sala. È chiaramente anche questo un crossover nel crossover, ma ci interessava molto provare a fare questo piccolo esperimento insieme. E questo sicuramente è il titolo di punta del mese, è un lavoro molto importante, ripeto, Massimo non ha bisogno di presentazioni da questo punto di vista. E vi segnalo anche, visto anche il periodo dell'anno in cui ci troviamo, se avete voglia di andare a fare un giro nella nostra sezione editorie indipendenti su opendtv.it, dove trovate molti libri interessanti e molte case editrici indipendenti, una su tutte Elementi Kairos di Roma, con cui c'è un sodalizio ormai che dura da tanti anni, e nella nostra newsletter infatti abbiamo segnalato alcuni dei loro titoli, tra cui Cadono tutti i re del mondo, che è un titolo che abbiamo acquisito giusto qualche mese fa, sempre edito da Kairos Edizioni. E insomma, anche nella sezione editoria vige il nostro principio del meccanismo a donazione aperta, perché è il nostro modello di distribuzione, gli effetti su tutte le tipologie. Visto il periodo natalizio in cui ci troviamo, se avete intenzione di fare qualche regalo e non andare su Amazon, vi aspettiamo molto volentieri sulla nostra piattaforma indipendente. Un abbraccio, Paco, alla prossima. Grazie a voi, a presto. Con Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi per presentare la retrospettiva Corso Salani e la seconda edizione della rassegna Docusfera, le forme del documentario italiano. A Roma, presso Sentieri Selvaggi, dal 4 novembre al 22 dicembre 2022. Ben trovato. Grazie, grazie dello spazio e dell'attenzione. Docusfera nasce da un'attenzione che Sentieri Selvaggi come sito e come rivista ha portato avanti da sempre, fin dalle sue canzoni precedenti a quella online, attenzione per il mondo del documentario italiano, sia quello più ufficiale, istituzionale, che quello più sommerso, quindi dal cinema del reale a invece forme di documentario più divulgativo, più di più ampio respiro. Questa attenzione che ha portato negli anni Sentieri Selvaggi a diventare un punto di riferimento per il pubblico degli addetti, gli appassionati di questo canone e gli autori stessi del documentario italiano, del cinema del reale, non solo, poi si è sposata anche con la nostra vocazione didattica, nel senso che appunto il documentario è uno dei punti forti della nostra proposta come scuola di cinema. Quindi Docusfera è stata, sia nella sua prima edizione che in questa seconda, che vale anche quest'anno il contributo del Ministero dei Beni Culturali, è stata un tentativo di ragionare sulle forme del documentario italiano e dal punto di vista proprio di proposta e dal punto di vista di confronto con gli autori e proprio dal punto di vista invece della didattica. Ci sarà un corso, parte un corso dedicato proprio al documentario, alle forme del documentario, e per cui bisogna superare una selezione sul nostro sito, su sentierselvaggi.it, ma anche su scuolasentierselvaggi.it ci sono criteri per poter partecipare alla selezione di questo corso, dove si terrà a distanza in modalità online. Ma Docusfera non è soltanto una proposta didattica, una proposta appunto di un corso online, ma è anche e soprattutto per noi un modo per indicare opere, titoli e autori che secondo noi costituiscono la costellazione del documentario italiano presente, ma non solo. Nel corso di questi 12 incontri ci verranno a trovare Marco Bellocchio, quindi non un documentarista puro ad esempio, ma di cui Max può aspettare, noi lo consideriamo uno dei titoli più fulgidi di questo linguaggio, per me è un linguaggio ibrido che trascende l'archivio, che trascende il film di famiglia, che trascende i canoni stessi delle suddivisioni per generi o per modalità di narrazione. Poi ci verranno a trovare Federico Francioni, quindi proprio un incrocio generazionale, per cui Rui Garibaldi è uno dei film di maggior successo all'interno del mondo festivaliero dedicato a queste modalità di narrazione, poi Federica Di Giacomo col Palazzo, Mauro Santini, quindi uno dei grandi nomi ad esempio invece del documentario inteso proprio come narrazione senza fine, come frammento, come diario, come racconto così di sensazioni, di tracce in qualche maniera. Avremo titoli di autori che hanno fatto la storia di questo genere, Pai Barbar di Yervan Janikian e Angela Ricci Lucchi, Enzo Domani a Palermo di Franco Maresco e Daniele Cipri, che è il titolo con cui apriamo il 4 novembre, appunto. Voglio sottolineare che sono tutti a ingresso gratuito i nostri appuntamenti di visioni e i nostri incontri, Daniele Gaglianone, Artemida Sieri e Angelo Cretella con La Carovana Bianca, insomma ci saranno autori che sono anni che lavorano in questo canone e sguardi che si stanno affacciando in questo momento. per noi appunto era importante poter tenere insieme questi momenti per parlare con chi lo fa realmente questo cinema, è la possibilità di poterli mostrare questi film, farli vedere, perché lo sappiamo, tolti i 2-3 titoli più importanti che circolano e che si fanno vedere, poi è difficile per queste modalità di narrazione e di produzione poter trovare un loro pubblico. Per noi è fondamentale offrire lo spazio, la sala e la community di Sentieri Selvaggi a queste modalità di racconto. Noi portiamo avanti questa retrospettiva permanente su Corso Salani fin da quando, ahi noi, Corso ci ha lasciato, quindi ormai 10 anni fa, e ogni volta cerchiamo di arricchirla di qualcosa. Quest'anno all'interno di Docusfera ogni proiezione verrà introdotta da un cortometraggio di Corso Salani. I corti di Corso sono ancora più difficili da vedere in confronto ai lunghi, per cui ci piaceva ognuna di queste 12 serate introdurla con un corto o di Corso Salani o dedicato a Corso Salani. Quindi sono delle chicche ancora più difficili che abbiamo recuperato e siamo riusciti ad avere, tra cui I casi della vita, che è una piccola serie di cortometraggi che lui fece per l'Enel, molto molto molto interessanti. Ecco, ci sarà anche questo dentro Docusfera. Ci dai tutti i riferimenti internet? sentieriselvaggi.it, dove si può trovare tutto il calendario con le visioni, gli orari e le giornate. Di base sono venerdì, sabato, domenica dal 4 novembre per tutto il mese di novembre, invece il corso va avanti fino a dicembre. Anche lì su sentieriselvaggi.it basta cercare Docusfera, o su Scuola Sentieri Selvaggi basta cercare Docusfera, altrimenti cercateci anche su tutti i principali social, ci sono le pagine sia del sito che della scuola. Questo è importante per chi non dovesse trovarsi a Roma, gli incontri andranno anche in onda live sulle nostre pagine social, quindi appunto Marco Bellocchio, Federico Francioni, Mauro Santini, tutti coloro che ci verranno a trovare li potrete seguire pure a distanza. I film invece no, ecco, per i film bisogna venire in via Carlo Botta 19 a Roma per vederli, ma pensiamo che sia anche un momento bello poter vedere in sala, seppur in una piccola sala come la nostra, piccola ma accogliente, un cinema che difficilmente riesce a trovare delle sale, per cui ecco, noi vi aspettiamo veramente nella nostra sala dell'Esquilino, perché siamo molto contenti del programma di quest'anno, di poter rifare un esperimento che l'anno scorso è nato soprattutto come una scommessa e come una risposta a un bisogno che sentiamo sempre più grande. È vero che questo cinema ha sempre avuto degli spazi e una sua tradizione in Italia, no? Penso ai Popoli, a Filmmaker a Milano, eccetera, però ci sembra importante che ce ne siano sempre di più e sempre più interconnessi tra di loro, per cui ecco, Docusfera è una cosa appunto a cui noi teniamo particolarmente. La retrospettiva Corso Salani è la seconda edizione della rassegna Docusfera, le forme del documentario italiano. A Roma, a Sentieri Selvaggi, dal 4 novembre al 22 dicembre 2022, un saluto e un ringraziamento a Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi. A presto! Grazie come sempre Federico! Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il regista Antonio Rezza sul suo film Il Cristo in Gola, in programmazione a Roma al Cinema Troisi e a Milano al Cinema Beltrade.